La portata storica del movimento di resistenza italiana assume dimensioni ancora maggiori, se cogliamo il movimento più generale di resistenza per la liberazione che si sviluppò in quegli anni in Europa e da allora fino ai nostri giorni, nell'Africa colonizzata e oppressa attraverso le lotte eroiche dei popoli di colore, nell'America Latina, nell'Asia, lotte di questi anni che hanno nell'eroico popolo vietnamita il simbolo più luminoso. Per questo la resistenza del popolo italiano continua. Camaradas e compatriotas, neste momento em que começamos o novo ano de vida e de luta e o nosso combate pela independência do nosso povo africano. Il centro Amilcar Cabral è una biblioteca, un luogo di studio, di riflessione e di dialogo. Ci parla di Africa, America Latina, Asia, ma soprattutto ci parla di pratiche di relazioni internazionali. Questo posto ha compiuto 50 anni e in questo podcast vi raccontiamo pensieri, emozioni e scintille che hanno dato origine nella Bologna degli anni 70 a un centro studi intitolato al leader rivoluzionario africano Amilcar Cabral. Nella prima puntata di questo podcast abbiamo parlato del conflitto israelo-palestinese. Oggi, gennaio 2025, il cessate il fuoco a Gaza finalmente c'è. Non sappiamo quanto durerà e se effettivamente verrà rispettato, ma la felicità esplosa nelle strade e le lacrime delle prigioniere liberate sono delle emozioni contagiose che hanno piena cittadinanza in questa storia drammatica. Negli stessi giorni, nuovi scenari globali ci investono. Un altro mandato di Trump ci aspetta. Each year, Americans of every age, color, and background travel to our nation's capital by the tens of thousands to stand up for precious little babies who cannot stand up for themselves. I am proud to be the first president ever to have joined you in person. As you know, this annual march started 52 years ago on the first anniversary of the disastrous ruling known as Roe v. Wade. That unconstitutional decision took power away from the states and the voters, kicking off 50 years of division and anger. Quali saranno le nuove forme di solidarietà per le minoranze colpite? Quali resistenze e quali nuovi confini nasceranno? Certo, la storia non è sempre un rifugio, ma sicuramente rimane preziosa per capire che binarismi e polarizzazioni non sono mai un'analisi efficace. In questa puntata vogliamo parlare degli esempi concreti di solidarietà che sono nati anche da un'idea politica precisa, quella che connetteva l'antifascismo con l'anticolonialismo. Ogni cambio di scenario globale è accompagnato da dei valori, valori sociali, morali e politici. Negli anni 70, in Italia non solo, l'antifascismo era uno di quei valori che faceva da protagonista nel flusso dei cambiamenti del mondo. La sua storia si intreccia a quella dell'anticolonialismo ed è in questo intreccio che la solidarietà attiva prende forma. Il Cabral ha sviluppato la sua opera all'interno di un sistema di relazioni che volevano, con atti concreti, creare un ponte tra l'Africa e noi. Fuori di casa. Una bella pasquera come un niño che sta bella, sta bella vesti, una bella comprende. E rapporto quanto e pergunta superiano, a lei è quanto mia parte mentre mi sta pega, superiano risponde. Tu è difficile, ma non caglia da voce, una rua Rafael. Da dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e ancora di più a partire dagli anni 60, nelle tante varie culture politiche dell'Italia repubblicana e in particolare della sinistra in Italia, l'antifascismo incontra l'anticolonialismo. L'esperienza della resistenza, ancora viva nella memoria dei protagonisti, come in quella del partigiano Arrigo Boldrini, che abbiamo ascoltato in un frammento audio del 75, proprio prima della sigla, ha rappresentato il riscatto del popolo italiano sull'invasore tedesco e sul nemico fascista. Gli oltre 30 anni di storia dell'antifascismo trovano negli anni 70 nuova linfa vitale nelle lotte di liberazione anticoloniale in Africa, Asia e America Latina. L'Italia è stato un paese coloniale prima e durante il fascismo, ma la frattura che la lotta di liberazione e poi la nascita della Repubblica hanno provocato con quel passato è stata radicale. La resistenza ha infatti mostrato il volto antifascista degli italiani e una capacità di massa di agire contro un regime criminale e mortifero. Paradossalmente, questo lungo e sofferto processo, che ha permesso di riabilitare l'Italia agli occhi del mondo, ha consentito a quella storia del colonialismo italiano di rimanere sullo sfondo. La Repubblica, nata dalla resistenza, si sente per lo più estranea al passato coloniale e questo nel dopoguerra rimane sepolto sotto un vero e proprio cumulo di sabbia del deserto. Nella seconda puntata di questo nostro podcast abbiamo incontrato Vincenzo Russo, professore associato di letteratura portoghese e brasiliana presso l'Università degli Studi di Milano. Ora lo riascoltiamo a proposito del nesso tra le radici della nostra resistenza e lo sguardo all'orizzonte, rivolto alle lotte anticoloniali degli anni 70. Che negli anni 60, forse fine anni 50, il grande discrimine è la guerra d'Algeria. Comincia a insinuarsi nel discorso pubblico italiano, cioè per cui si è antifascisti se si è anticolonialisti. Quindi le lotte del terzo mondo, le guerriglie, penso appunto agli algerini o penso al caso più vicino a me che è quello delle colonie portoghesi che si ribellano contro il colonialismo portoghese agli inizi degli anni 60, sarebbero, come dire, la continuazione di una resistenza con lettera maiuscola, no? Quella resistenza ovviamente antifascista che aveva attraversato l'Italia ma l'Europa. E questo è un discorso che ha molti limiti, alcuni lo fanno proprio, addirittura gli storici, per esempio nella grande storia, no, della resistenza, questo discorso viene, come dire, chiosato, no, anche per ravvivare l'eredità della resistenza. Altri giornalisti, penso a Bocca, dice che la guerriglia del Vietnam o la guerriglia degli africani contro il colonialismo portoghese non possono essere letti con le lenti europee eurocentriche. Sicuramente è un discorso che fa presa, io oggi un po' ne ravvedo certi limiti di interpretazione, sicuramente da un punto di vista storico. Sicuramente è un discorso che nasce in quel gruppo, di nuovo uso la parola costellazione, di intellettuali che però avevano fatto esperienza della resistenza, quindi erano stati antifascisti, erano antifascisti e cominciano a interessarsi per le liberazioni nazionali dei paesi del terzo mondo. E quindi, come dire, c'è anche questo sovrappiù di esperienza, no? A volte, per esempio, penso a Mario Giovanna che va in Algeria, penso a Joyce Lusso che ovviamente non va a combattere, no, con il Partito Africano di Indipendenza della Guinea Bissau e di Capo Verde, ma che vive con i guerriglieri e quindi, come dire, fa una lettura, fa la testimonianza di quei passaggi anche attraverso le sue memorie biografiche, quindi con una specie di specularità, guardo alle lotte del presente con la mia memoria degli anni dell'antifascismo militante, la resistenza, sia essa clandestina, sia essa Joyce Lusso, no, penso che vaga per l'Europa, falsifica passaporti, si addestra alla guerriglia in Inghilterra, eccetera, eccetera, oppure no, la resistenza proprio sui monti, come è il caso di Giovanni Pirelli, altro antifascista che diventa anticolonialista perché legge Frantz Fanon e grazie ai testi e ai libri di Frantz Fanon si intesta, potremmo dire, la causa algerina. Oltre all'internazionalismo, Altri due pilastri del pensiero e della pratica politica della sinistra socialista, almeno alle sue origini, sono la solidarietà e il mutualismo. Fin dall'Ottocento, la base del movimento socialista dà vita ad associazioni e organizzazioni che si occupano di alfabetizzare uomini e donne, di formare al lavoro, di erogare credito, di fornire basilari forme di previdenza, di dare assistenza ai più deboli. La chiave di tutte queste esperienze, però, è una radicale volontà di cambiamento. A differenza della carità cristiana, infatti, la solidarietà socialista non si accontenta di alleviare le sofferenze di un popolo amorfo e passivo, vuole un popolo invece attivo nel migliorare la propria condizione e disposto a mettersi in gioco per migliorare la condizione altrui. Nel corso del Novecento, questi principi superano i confini della classe operaia europea e occidentale, che da parte sua inizia a guardare alle lotte di liberazione dei popoli colonizzati come parti della propria lotta e come tali da partecipare attivamente. Le lotte anticoloniali dei cosiddetti paesi in prima linea contro l'imperialismo e le forze neocoloniali ricevono quindi solidarietà concreta dall'Italia attraverso l'accoglienza e gli aiuti materiali da parte di tante realtà. Negli anni 70, le città governate dai partiti comunisti hanno avuto una funzione centrale, come l'amministrazione di Reggio Emilia, ad esempio, che insieme alle federazioni locali del PCI in regione, in questi anni ha costruito una vera e propria rete, sia culturale sia sanitaria, di aiuti verso l'Africa australe, in particolare verso il Mozambico, l'Angola e l'African National Congress del Sudafrica. Se negli anni 60 la solidarietà della sinistra italiana si era concentrata soprattutto sul Vietnam e sulle colonie africane portoghesi, negli anni 70 la solidarietà si apre anche all'America Latina, in particolare al Cile, al Brasile e all'Argentina, paesi vittime di una politica aggressiva degli Stati Uniti che intendevano frenare ulteriori sviluppi della rivoluzione socialista cubana. Dopo il golpe fascista di Augusto Pinochet in Cile nel settembre del 1973, le pratiche della solidarietà in Italia cambiano in modo sostanziale. Il Cile rappresenta da tempo, in particolare per il Partito Comunista, un osservatorio da cui si possono attingere lezioni utili per noi. Immediatamente dopo il colpo di Stato, il partito istituisce un'associazione di solidarietà, il Comitato Italia-Cile, particolarmente attivo in Emilia-Romagna. La solidarietà investe la vita quotidiana. Il Comitato, infatti, non solo si occupa di informazione e di sensibilizzazione, ma si attiva anche nel coordinamento dell'accoglienza capillare e concreta degli esuli cileni in fuga dal regime sanguinario e dalle persecuzioni degli oppositori di Pinochet. A questi si sommano gli esuli argentini e brasiliani. Giancarla Codrignani, intellettuale e scrittrice, più volte parlamentare della sinistra indipendente, è da sempre presente nelle pratiche di solidarietà internazionali. Le abbiamo chiesto qualche ricordo con le esuli cilene. Frese era uno di questi ed è arrivata, però faceva parte per se stessa. E ricordo in una sezione del PC che si raccoglieva per il Cile, per i prigionieri, le famiglie prigionieri cileni, che lei chiese di riservare una quota per gli assorbenti delle prigioniere politiche. Non ti dico le facce. Immagino dei maschi. Sì, poi erano gli anni 70. Era un po' tosta. Tutto questo avviene in un contesto in cui la legge italiana dell'epoca sull'asilo politico ha degli enormi buchi. Ai profughi viene accordata una protezione umanitaria solo in regime di deroga e grazie al mandato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Questa situazione sarebbe rimasta invariata fino alla legge Martelli del 1990. Anna Maria Gentili, storica dell'Africa, che abbiamo già conosciuto nelle scorse puntate, ci racconta di come le Nazioni Unite c'entrano in qualche modo con il ruolo culturale del Centro Cabral. Molte organizzazioni che oggi chiamiamo non governative, ma molte organizzazioni di giovani e non di giovani, molte organizzazioni anche cattoliche o miste, si occupavano di questi problemi, che erano problemi di solidarietà. Oggi li chiamiamo di diritti umani. Ricordiamo che i diritti umani vengono approvati dalle Nazioni Unite. C'era allora una grande valorizzazione delle Nazioni Unite, che oggi non c'è assolutamente più, le Nazioni Unite come, diciamo così, un'ipotesi di creazione di un mondo non solo più solidale ma molto più giusto. Cioè c'è questa questione che la decolonizzazione doveva significare anche lì la creazione di istituzioni di tipo democratico. In sostanza, l'accoglienza solidale dei profughi dell'America Latina è in mano all'iniziativa degli enti locali, delle città soprattutto, e delle città amministrate dal PCI o da coalizioni socialcomuniste. Poi è in mano ai partiti, alle associazioni, alle università e alle unità sanitarie. Hanno avuto una funzione fortissima la presenza del Rizzoli, l'ospedale, sì, dove venivano curati, con aiuto delle municipalità e della regione, vittime delle lotte di liberazione, protesi delle gambe, una presenza reale, no? La professoressa Marica Tolomelli, dell'Università di Bologna, ci racconta il ruolo dell'ospedale Rizzoli di Bologna in questa vicenda. Dunque, l'antifascismo è un asse tematico, no, che alimenta l'internazionalismo comunista. Questo si avverte in Emilia-Romagna, a Bologna, ma appunto direi in tutta la regione, in particolare nell'area emiliana, promosso dalle amministrazioni comunali a guida comunista, avutesi anche nel caso di Reggio Emilia, no? Nei primissimi anni 70 Reggio Emilia ospitò un congresso di respiro internazionale a sostegno delle lotte di liberazione anticoloniale, quindi forme di solidarietà che si esprimevano nei concetti di solidarietà sanitaria. A Reggio Emilia vi fu questo caso molto significativo di collaborazione tra strutture sanitarie, no? Tra Reggio Emilia e Mozambico. Qui emerge, a proposito della solidarietà sanitaria, emerge anche il ruolo delle persone, dei singoli individui, cioè non nasce dall'ufficio Commissione Esteri, no? La proposta non nasce, diciamo, dall'alto Commissione Esteri del Partito Comunista, lanciamo una campagna di solidarietà sanitaria. In parte era venuta da sé questa pratica anche rispetto alla guerra in Vietnam, no? Iniziano ad organizzare appunto spedizioni, invio di materiali sanitari, di medicinali. Nel caso dei rapporti di solidarietà con le colonie, poi ex colonie portoghesi, credo che abbia avuto un ruolo importante l'iniziativa in singola o diciamo presa all'interno di reti, di relazioni che hanno avuto alcune figure. Penso a un medico come Giuseppe Soncini, che era appunto anche vicino o dentro al Partito Comunista e all'amministrazione cittadina di Reggio Emilia, ha avuto appunto ruoli dirigenziali dell'ospedale di Reggio Emilia ed è stato tra i promotori, sostenuto dall'amministrazione comunale, comunista, il sindaco Renzo Bonazzi di Reggio Emilia, no? Sostenuto in questo ad attivare un presidio sanitario in una località del Mozambico, Cabo Delgado. E quindi da qui poi ovviamente le relazioni appunto anche a livello regionale si sono estese, per cui feriti, mutilati, no? Arrivavano dal Mozambico attraverso la rete di relazioni e di vero e proprio gemellaggio, diciamo, sanitario tra i due ospedali, tra i due centri sanitari, arrivavano in Italia le strutture mediche migliori, no, di preparazione di protesi, eccetera, insomma, si avevano a Bologna, a Rizzoli. Peraltro, questo sarebbe da verificare, anche il centro di specializzazione sulle protesi nella provincia di Bologna, nei pressi di Budrio, se non sbaglio, e in qualche modo è anche stato sollecitato, per quanto io so, diciamo, lo sviluppo di questo centro è avvenuto in questo contesto. Il problema era quello delle mutilazioni da mine, no? Da mine antiuomo, insomma. Io ho nominato Giuseppe Soncini a livello, diciamo, regionale, come una figura importante, il quale Giuseppe Soncini era anche comunque legato a rapporti di collaborazione, diciamo, professionale e politica a un altro esponente, un medico comunista, Silvio Pampiglione, che è stato, diciamo, più a livello forse nazionale, a livello del PC nazionale, una figura di grande rilievo. Questo per dire anche i singoli, no? E individui potevano, l'iniziativa presa, no? Le idee nate all'interno di particolari contesti, ma su iniziativa individuale anche, no? Di alcune figure, potevano arricchire e sostanziare, no? Le forme di internazionalismo e di solidarietà internazionale in maniera molto più, diciamo, concreta, legata alle situazioni specifiche. potevano darsi diversi modi, no, per manifestare solidarietà nel contesto appunto regionale di cui stiamo parlando, nel periodo storico di cui stiamo parlando, l'azione appunto di medici impegnati, diciamo così, politicamente è stato un elemento caratterizzante, a mio avviso, quel tipo di intervento. Melcar Cabral nasce quindi in un tessuto cittadino e regionale di grande attenzione verso le cause dei popoli in fuga dalla guerra, in lotta contro le ingiustizie e la violenza secolari del colonialismo e quella dell'imperialismo del dopoguerra. Probabilmente il Centro Cabral non poteva nascere in nessun'altra città se non in questo centro nevralgico di solidarietà e internazionalismo che era Bologna negli anni 70. Ed è ancora Giancarla Codrignani che ci parla del Cabral come opportunità per la città. Cioè i cittadini che andavano in piazza erano cittadini che sapevano le origini dei fatti di cui si parlava, che non è che andavano solo con una bandiera, andavano con una consapevolezza, avevano una coscienza, perché veniva mobilitata la città e c'erano anche delle opportunità. Il Cabral diventa una delle opportunità fondamentali per quei tempi, essendo ovviamente inconfrontabile con la sistemazione sociale di oggi, che ha una dispersione molto maggiore, più presenze, eccetera, una diversità che rende impossibile riprendere il modello. Però il modello era la cultura, anche nel momento in cui tu prendevi posizione pro, e naturalmente c'era chi non era disponibile alla stessa scelta. Allora ci furono molti intellettuali che però andavano in giro, e allora erano più le sezioni politiche che si occupavano anche di approfondire queste cose, ma c'era un'estensione sul territorio e gli intellettuali di quell'epoca erano disponibili a presentarsi in giro. È lì che io ho fatto anche conoscenza della mia città, nel senso dei cittadini che avevano voglia di partecipare, ma sentendo il problema dell'internazionalismo come un problema di grande spessore per gli interessi locali. Cioè non è che occupandoci del Vietnam o del Cile o del Sudafrica noi uscissimo da Bologna. Era sempre la stessa questione, cioè Bologna non poteva avere uno sguardo solo al proprio interno. Ma in tutto questo c'era anche chi non era dello stesso avviso. Vi leggiamo qui un controcanto del Giornale, quotidiano di destra allora come oggi, datato 10 dicembre 1977. Questo breve pezzo, con un gioco di specchi, ci racconta di come in realtà il Cabral portava avanti una connessione fruttuosa con le istituzioni cittadine. Fra le tante buone cose di pessimo gusto che esistono a Bologna, il centro studi Amilcar Cabral fa la parte del vaso cinese nel salotto sinistrese di Palazzo da Curzio. L'organismo in questione si occupa solo ed esclusivamente dei vari fascismi che sono al mondo, tiene contatti con gli studenti stranieri, antiimperialisti e anticolonialisti, organizza serie di conferenze e tutto secondo un'ottica di immediata remunerazione politica. Fra 40 anni i ghirigori che l'Amilcar Cabral disegna in rosso scuro sulla sgretolata porcellana del mondo potrebbero essere presi ad esempio dall'incultura. Per ora invece si arricchisce di una biblioteca e di un'emeroteca, oltre che delle scritte murali in lingua straniera di cui la città universitaria è costellata e che sono il simbolo, fattosi vernice spray, dell'inutilità. Solo che il gioco non è remunerativo alla lunga. Si sa che puntando esclusivamente sul rosso e sul nero si può solo sopravvivere come pensionati di Sanremo. Non solo le istituzioni e le organizzazioni più o meno grandi e ufficiali credevano nell'importanza dell'accoglienza, nel supporto materiale e nell'impegno per i diritti umani, la dignità, la libertà e i diritti di autodeterminazione dei popoli, ma erano tanti e tante cittadini a crederci, alla ricerca di altre storie dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina, e a sentire nel più profondo qualsiasi ingiustizia commessa contro chiunque, in qualsiasi parte del mondo, come disse in questo slogan ormai noto, Ernesto Che Guevara. In questo sentire comune c'era una grande rivoluzione. Negli anni 60, in Guinea-Bissau, Mozambico e Angola, si stanno svolgendo degli scontri decisivi contro l'ultimo impero coloniale tradizionale, quello portoghese. Anche nei paesi che hanno già conquistato l'indipendenza, però, si fanno i conti con i vecchi padroni che cercano di tornare in maniera strisciante, e l'omicidio di Patrice Lumumba in Congo lo testimonia in maniera fin troppo chiara. Lo slogan con cui Amilcar Cabral aveva inaugurato la guerriglia, e cioè unità e lotta, prende un significato concreto. Prima di tutto, unità nelle lotte di indipendenza di Guinea-Bissau, Angola e Mozambico, visto che si confrontano con un nemico comune, ma unità anche con gli altri paesi africani. E Cabral non è l'unico a lanciare questo slogan. A tutti è chiara la necessità di avere un unico fronte di lotta a livello continentale, ma la cosa non è per niente scontata. Il ministro dell'industria di Cuba dell'epoca, che era Ernesto Che Guevara, intraprende nel 1964 un lungo viaggio nel continente africano. Amilcar Cabral lo incontra nel gennaio del 1965 a Conakry e i due parlano di molte cose, di terzo mondo, di alleanze e di strategie per condurre la guerriglia, probabilmente anche del possibile aiuto cubano alla liberazione della Guinea-Bissau, un aiuto di cui il movimento ha un disperato bisogno. Di fronte ai suoi successi militari, infatti, il governo portoghese ha rafforzato ulteriormente il suo esercito coloniale. Il dialogo tra Cabral e Che Guevara porterà nel 1966 all'arrivo in Guinea-Bissau di mezzi militari, aiuti alimentari, medici e tecnici cubani, alcuni dei quali resteranno fino alla fine della guerra del 1974. Il Che è convinto che il terreno sul quale si combatte la lotta contro l'ultimo impero coloniale europeo è uno dei più importanti campi di battaglia contro tutte le forme di sfruttamento esistenti al mondo, l'imperialismo, il colonialismo e il neocolonialismo. Le lotte di liberazione africane sono poi la scintilla che farà nascere la tricontinentale, cioè l'alleanza tra l'Asia, l'Africa e l'America Latina contro il potere dell'Occidente e che rappresenta il grande sogno di Che Guevara. Amilcar Cabral ne è uno dei protagonisti e prende parola di fronte all'assemblea già il secondo giorno della tricontinentale e poi di nuovo il 6 gennaio a nome dei movimenti di liberazione di Angola, Mozambico, Guinea-Bissau e di Capo Verde. Il suo celebre discorso, dal titolo L'arma della teoria, sviluppa la sua idea di rivoluzione africana. Amilcar Cabral, in questo celebre discorso, dichiara: per quanto rilevante sia la somiglianza dei casi presenti e l'identità dei nostri nemici, nemici, la liberazione nazionale e la rivoluzione sociale non sono delle mercanzie di esportazione. Esse sono ogni giorno di più il prodotto di elaborazioni locali, nazionali e più o meno influenzate da fattori esterni favorevoli e sfavorevoli, ma essenzialmente determinati e condizionati dalla realtà storica di ogni popolo e consolidati dalla vittoria o soluzione corretta delle contraddizioni interne tra le differenti categorie che caratterizzano questa realtà. E infine conclude: siamo coscienti del fatto che la nostra vittoria non sarà facile. Noi abbiamo un'esperienza multisecolare della natura del nostro nemico e della particolarità che lo caratterizzano rispetto alle altre forze colonialiste. Nonostante esso sia isolato, non dimentichiamo che dispone ancora di forze distruttive superiori alle nostre, che è aiutato da altre forze nemiche della libertà e del progresso dei popoli africani. Noi lottiamo anche contro l'imperialismo mondiale. The job of progressives and revolutionaries everywhere is to hasten the death of imperialism. 50 anni oltre i confini è una serie podcast realizzata da Radio Vallun per Biblioteca Amilcar Cabral, settore biblioteche e welfare culturale del Comune di Bologna. Nel 2024 il centro compie 50 anni e celebriamo il centenario della nascita di Amilcar Cabral. Potete riascoltare le puntate su tutte le piattaforme e sui siti bibliotecaamilcarcabral.it e su radiovallun.info. Fonti e bibliografia in sinossi. Le le le le le le le le.